che adesso manca a una donna sui 50. Se ti chiedi che cos'è, una risposta adesso c'è. Che tesoro nella patta, se ce l'hai è cosa fatta. Sì, il tesoro nella patta, se ce l'hai è cosa fatta. Di che cosa poi si vanta quella bionda con baldanza, della dote del suo toy boy, una dote che tu non hai. Il tesoro nella patta, tu ce l'hai ed è cosa fatta. Oh sì, il tesoro nella patta, se ce l'hai è cosa fatta. Stasera può anche darsi che finisca per accontentarsi del tuo comportamento leale, anche se poi certo non vale. Il tesoro nella patta, tu ce l'hai ed è cosa fatta. Wow, il tesoro nella patta, tu ce l'hai ed è cosa fatta. Tesoro nella patta, sì, tesoro nella patta. Stronza.